Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, vigilia di Ferragosto, domani la trasmissione non sarà in onda, ritorna poi lunedì con il titolare, con Sebastiano Barisoni. 349-238-6666, come sempre per i vostri sms. Finalmente è arrivato il dato che attendevamo, del quale lungamente abbiamo parlato ieri, ossia il dato sull'andamento dell'economia tedesca. Un dato, come avete sentito anche dal giornale radio, negativo, un meno 0,2%, quindi sono nella parte bassa delle previsioni degli analisti, perché come vi abbiamo raccontato ieri, alcuni ritenevano che la Germania nel secondo trimestre sarebbe rimasta in perfetto pareggio. Quello che forse più preoccupa in assoluto è il fatto che non solo la Germania va male, ma va male praticamente tutta Europa. Oggi sono arrivati anche i dati dalla Francia, che non sono per nulla positivi e sicuramente inferiori anche qua alle attese degli analisti. Ma a guardare complessivamente i dati che fornisce Eurostat oggi, insomma, c'è veramente pochissimo da stare allegri, tanto nell'area euro, tanto nell'Europa a 18, quanto nell'area più ampia, appunto, l'Europa a 28. E questo naturalmente sarà il nostro primo tema, il primo tema di apertura. Nel frattempo si ipotizzano nuove possibili mosse da parte della Banca Centrale Europea per cercare di migliorare la situazione, cercare di stimolare la crescita, e questo sarà naturalmente il nostro primo tema. Parleremo ovviamente di mercati, come sempre, di come vanno le borse, oggi negative, FTSE MIB cede 0,5%, il FTSE All Share lo 0,41%, positivo il resto d'Europa in realtà, con Francoforte che tiene più 0,27%, Parigi più 0,21%, Londra più 0,43%. Per quanto riguarda l'America è arrivato un dato non particolarmente positivo sui sussidi di disoccupazione settimanali, tra poco ve lo forniremo. Comunque il Dow Jones guadagna lo 0,18%, il Nasdaq lo 0,22%, Francoforte positiva, ma poi torneremo più avanti sui mercati. C'è da dire che probabilmente ha scontato anche questo dato sul prodotto interno lordo parecchio nelle ultime settimane, tanto che c'è un report di ieri di un rapporto di ieri di UBS che definisce la Germania come potenziale malato finanziario d'Europa, nel senso che dicono reggono bene i titoli di Stato, regge bene il mercato dei titoli di Stato, regge un po' meno bene il mercato dei titoli azionari. E poi parleremo di imprese che se ne vanno o se ne potrebbero andare dall'Italia. Abbiamo discusso tantissimo di Fiat, del fatto che abbia messo la sede legale all'estero, che insomma ha voluto godere di una situazione di favore probabilmente anche dal punto di vista fiscale, con un ragionamento dietro che ci sta anche, che siamo una multinazionale, la nostra testa può essere dove vogliamo sostanzialmente, perché siamo una grande azienda multinazionale. Ebbene, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche G-Tech, la ex Lottomatica, che sta concludendo una grande acquisizione negli Stati Uniti, farà esattamente la stessa cosa, metterà la testa a Londra. E ieri o l'altro ieri Pietro Salini, a capo di Salini in Pregilo, ha detto progettiamo nuove acquisizioni all'estero e perché no fare la stessa operazione di Fiat, cioè mettere la testa dell'azienda, la sede, quantomeno la sede legale, da un'altra parte. Ragioneremo di questo mentre arrivano ulteriori pressioni dai cosiddetti mercati emergenti, da questo punto di vista, che nemmeno più tanto emergenti sono, come la Serbia, che ha varato una serie di riforme nei primi 100 giorni del nuovo governo che favoriscono esattamente l'afflusso di capitali stranieri, una maggiore flessibilizzazione del lavoro. Considerate che noi siamo al primo posto per investimenti diretti esteri in Serbia, un 15% del totale. Tutto questo tra poco, prima le notizie in breve. ci scrive come Luca che è ora di stampare euro, lo vogliono capire alla BCE, ne parleremo tra un attimo. Avremo anche Alessandro Merli, il corrispondente da Francoforte, che ci accompagna sempre in queste situazioni. Un ascoltatore ci dice: non cominci a far sentire i deliri di Renzi, faremo sentire almeno una voce del Presidente del Consiglio, ce la faccia, ci permetta di farla ascoltare. E poi in questo caso non sono deliri, però ci arriveremo. Allora, oro fermo a $1,315 l'oncia, petrolio in calo dello 0,6%, $97 al barile. Un paio di notizie dagli Stati Uniti. Innanzitutto queste richieste di sussidi di disoccupazione, che la scorsa settimana sono saliti di 21.000 unità a quota 311.000. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che scommettevano su quota 295.000. Da segnalare un dato interessante di oggi che riguarda il mercato dei telefonini, degli smartphone, o meglio dei software per gli smartphone, i sistemi operativi, quello che fa girare tutto il vostro telefonino in sostanza, che gli permette di funzionare. Microsoft continua a perdere terreno, Windows per telefonino non ha sfondato, arriva la conferma, ancora un'ulteriore discesa rispetto a un mercato che rappresentava già solo il 3,4%, nel quale Microsoft rappresentava già solo il 3,4%, arriva al 2,5%, dominio Google con Android con l'84,7% del mercato, Apple c'ha l'11,7%. L'Ucraina, come sapete, c'è un cerca di arrivare qualche segnale di distensione probabilmente da Vladimir Putin, che dice faremo tutto il possibile per porre fine al conflitto. E poi aggiunge: il lavoro della Russia è quello di svilupparsi in maniera tranquilla, onesta ed efficiente, senza escludere il resto del mondo, senza rompere i legami con i partner, ma anche senza permettere un atteggiamento sprezzante. Proprio a proposito di questo, il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina ha annunciato per il 5 settembre un consiglio europeo agri-fish, quindi settore agricoltura e pesca. Perché? Perché come sapete la Russia ha imposto un embargo di un anno su una serie di prodotti alimentari, il che rischia di essere molto dannoso, particolarmente per l'Italia e anche per la Germania. E questo naturalmente ha avuto un impatto anche sul dato dell'altro giorno, l'indice ZEB tedesco, che indicava una scarsa fiducia da parte delle imprese. La Banca Centrale Europea dice che i dati disponibili indicano il protrarsi di una ripresa moderata, la faccia di moderata, perché stiamo a zero, e disomogenea nell'eurozona. I rischi per le prospettive economiche restano orientati al ribasso. La BCE è pronta comunque a ricorrere anche a strumenti non convenzionali, si ribadisce. E su queste attese il rendimento dei Bund, i titoli decennali tedeschi, i rendimenti sono scesi sotto l'1%. I dati sono questi: il PIL dell'Eurozona resta invariato nel secondo trimestre 2014, più 0,7% su anno. È una stima flash questa, quindi ancora non quella definitiva. Il PIL tedesco scende dello 0,2% nel secondo trimestre 2014, dato anche qua peggiore delle attese. È stata rivista lievemente al rialzo però la crescita del primo trimestre rispetto all'ultimo del 2013, è un più 0,8 da un più 0,7. Tra le ragioni della frenata, l'export e le costruzioni. Sotto le attese degli analisti anche il dato sul PIL francese, più 0,1%, o meglio, che era per un più 0,1%, invece la crescita è invariata, ossia crescita zero. Il ministro delle finanze francese ha dimezzato la stima di crescita, così d'emblée, a mezzo punto percentuale di PIL contro l'1% stimato inizialmente. Chi va meglio? Il Portogallo, più 0,6%, oltre le attese rispetto ai tre mesi precedenti. E poi Renzi, si diceva prima, qualcuno scriveva deliri, ma non sono deliri, cioè questa mi serve un'osservazione sensata, perché è vero che il nostro paese non cresce da... forse da troppo tempo rispetto agli altri, ma è vero che una fase di tensione economica la attraversano tutti i paesi dell'Eurozona. Quindi sentiamo Renzi. Ho letto per 10 giorni scenari inquietanti sul nostro paese, perché abbiamo fatto meno 0,2 nel secondo trimestre. Oggi è arrivato il dato che è meno 0,2, lo fa anche la Germania, e trovo tutti quelli che dicevano ah mamma mia l'Italia è in crisi che dicono la Germania è in crisi. Io farei a cambio volentieri in termini di dimensioni economiche sulla con la situazione della Germania, che è sicuramente più forte della nostra. Però voglio dirvi che non è la percentuale, lo 0, ma è il clima di rassegnazione che talvolta anche nell'opinione pubblica, non intesa come cittadini, i cittadini fanno il tifo per l'Italia e quindi fanno il tifo per tutti noi. I cittadini sono persone molto più serie di quelle che noi rappresentiamo. Però il punto fondamentale è che c'è nella classe dirigente la impressione che tanto non cambierà mai, tanto rimarrà sempre così come sono le cose. Ci chiedete se le borse sono chiuse o aperte domani. Milano è chiusa. Sulle altre ci informeremo. Francesco Daveri, economista all'Università di Parma, editorialista del Corriere della Sera. Salve, buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato l'invito. Sappiamo che è in viaggio, come molti nostri ascoltatori del resto. E saluto anche Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Alessandro, ciao, buonasera. Buonasera. Partirei da lei, Daveri. Vorrei capire, i dati sembrano dircelo, però vorrei conferma da lei se condivide l'analisi di Renzi quando dice occhio che qua insomma abbiamo passato 10 giorni a parlare dell'Italia, ed è vero che per carità il nostro paese non cresce da troppo tempo, è tutto quello che sappiamo. È vero anche dall'altra parte che è tutta l'Eurozona che sembra attraversare una fase decisamente complessa da questo punto di vista. I dati in effetti sembrano dire esattamente questo, cioè un'eurozona ferma, addirittura anche la Germania che fa come noi, la Francia è ferma, la Spagna è l'unica che ha ripreso a marciare tra i grandi paesi dell'eurozona, fuori dall'eurozona Regno Unito e Polonia continuano ad andare molto bene, e quindi questo è un po' il riassunto. Questo non vuol dire che cambino tanto i discorsi per quanto riguarda l'urgenza di fare i compiti a casa, di fare le riforme dal nostro lato e anche di trovare il modo di rimettere in tasca un po' di soldi alle aziende e migliorare i bilanci delle banche italiane, però insomma indubbiamente questo segnala anche che ci vuole un'iniziativa anche un po' dall'Europa per riuscire a far andare meglio le cose, e questo quindi rimette un po' la palla nel campo della BCE, prima di tutto. Nel campo della BCE non trova che ci siano state un po' troppe invocazioni a sproposito della stessa Banca Centrale Europea, e forse quello che manca in realtà è una dimensione strategico-politica, no? di azione sulla crescita più che l'intervento salvifico della Banca Centrale? La palla deve tornare nel campo della BCE, perché parlando di Europa a me adesso viene in mente la BCE, non mi viene in mente Bruxelles, perché Bruxelles è una cosa più complicata, richiede, ci sono una giungla di trattati che sono stati firmati da 28 paesi e che prescrivono un pareggio di bilancio strutturale che non è che si può di punto in bianco, perché l'Eurozona è tornata in recessione, cancellare con un tratto di penna. Quindi quello che occorre fare è trovare flessibilità dentro i trattati, però questo non consente così insomma all'Italia di mettersi a fare 5 punti di deficit così dall'oggi al domani. Quindi parlando di settembre, perché questo è quello che conta, cioè quando tutti tornano a lavorare, quando l'economia dovrebbe ripartire, l'unica che può fare una differenza è la Banca Centrale Europea, con un intervento che possa essere aggiuntivo rispetto alle cose che comunque ha debitamente messo in campo in giugno. Quindi questa è la cosa. Poi la prospettiva strategico-politica, per carità, è una cosa su cui ragionare, riflettere, però il mio timore è che quando si parla di più Europa voglia dire anche più spesa pubblica europea a parità di spesa pubblica dei singoli paesi. Questo non credo che sia una buona idea. No, non è una buona idea, secondo lei. Allora, qua abbiamo l'uomo giusto per capire se Francoforte, se la Banca Centrale Europea, da questo punto di vista, ha intenzione di muoversi a fronte di due elementi, no? Da una parte questa crescita che non è una crescita a tutti gli effetti, perché insomma l'Europa va in perfetto pareggio, per così dire, e la Germania decresce anche lei nel secondo trimestre, e dall'altra parte ci sono i dati sull'inflazione, perché ha voglia Jens Weidmann, il presidente della Bundesbank, a dire che lo scenario, il rischio di deflazione non c'è, però molte persone che abbiamo sentito in questi giorni ci dicono che insomma effettivamente i segnali sono abbastanza netti, pur in maniera disomogenea tra paese e paese. Alessandro Merli, Draghi ha intenzione di agire? Ma credo che la preferenza della BCE sia quella di non muoversi almeno a settembre. Daveri ha giustamente ricordato il pacchetto di misure annunciato a giugno, alcune di queste di fatto devono ancora partire, per esempio le iniezioni di liquidità alle banche per fornire poi prestiti all'economia reale, la prima di queste sarà fatta in settembre, la seconda a dicembre, quindi è impossibile dire quale sarà il loro effetto ancora prima che vengano fatte. L'altra cosa, la BCE si aspetta molto da mesi dalla conclusione di questa analisi che sta facendo dei bilanci delle banche, quindi spera che rimuovendo questa incertezza che impedisce alle banche di prestare, anche questo sblocchi un po' il credito, quindi possa avere un piccolo impatto sulla crescita. Quindi la preferenza della BCE, come dicevo, è di non muoversi almeno per i prossimi mesi. Se poi interverranno dei fatti che la costringeranno ad agire, che poi a questo punto, cioè, quindi intendi perdonami Alessandro, tu intendi quindi un deterioramento ulteriore della situazione economica, questo in sostanza? Sì, soprattutto se l'inflazione dovesse scendere ancora. È possibile per esempio che ad agosto siamo allo 0,4 adesso, quindi già abbondantemente al di sotto dell'obiettivo della BCE, che è di stare sotto ma vicino al 2%, agosto potrebbe segnare uno 0,3, bisogna vedere se questo verrà considerato un elemento, un dato temporaneo. Se appunto il quadro dell'inflazione dovesse ulteriormente peggiorare, il quadro dell'economia dovesse ulteriormente peggiorare, tra l'altro a settembre la BCE pubblicherà le previsioni del suo staff, che probabilmente verranno leggermente limate al ribasso, solo a fronte di un ulteriore deterioramento io credo che la BCE agirà. La sua preferenza al momento è di stare a vedere che effetti hanno, che impatto avranno le misure che ha già deciso, cioè quelle di giugno in sostanza. Questo appunto dal lato della Banca Centrale Europea. Professor Daveri, le chiedo in realtà quasi più una lettura politica, e chiederò anche ad Alessandro Merli, che poi vive la quotidianità tedesca, insomma, e quindi ne sa. Secondo lei questi segnali dalla Germania, innanzitutto se sono un'indicazione di un peggioramento anche nella seconda parte dell'anno, e quindi, no, se vogliamo, anche il segnale dell'interdipendenza rispetto a un mercato dell'Eurozona che va giù, insomma, è sostanzialmente il nostro primo partner commerciale la Germania, e quindi se l'Italia scende è prevedibile che a un certo punto anche la Germania ne risenta, quindi dal punto di vista proprio della previsione e della prospettiva. E dall'altra parte, se secondo lei da un punto di vista politico questo può spingere i tedeschi, come dire, a muoversi in qualche modo, ad allentare questa tensione sui vincoli di bilancio? Da un lato credo che ci siano prospettive per un ulteriore rallentamento dell'economia tedesca, però certamente gli ordini di maggio e giugno sono andati molto male. Negli ultimi, gli ordini industriali, l'Italia, l'industria quanto è importante per la Germania, ancora più importante che per l'Italia praticamente. Quindi negli ultimi quattro mesi, in tre mesi su quattro, gli ordini sono stati negativi, gli ordinativi dell'industria, e per numeri anche consistenti. C'è una spiegazione facile di questo, immediato, che ha più a che vedere con l'Ucraina, quindi con circostanze esterne, più che non per ulteriori rallentamenti dell'Eurozona, che sono lì in realtà già da un bel po' di tempo, quindi i fattori interni sono sempre gli stessi. Di nuovo c'è che la Germania indubbiamente è quella, l'economia tedesca è quella più vicina all'est per tante ragioni, per i rapporti con la Russia, per i rapporti con l'est Europa più in generale, dove tra l'altro avvengono la maggior parte delle delocalizzazioni che hanno luogo dalla Germania, ma con l'intento poi di esportare magari nel mercato russo. Quindi queste sono ragioni per pensare che in realtà le cose in Germania non è che miglioreranno automaticamente nel terzo trimestre. Il rallentamento che c'è stato è probabilmente un rallentamento che segnala un indebolimento delle possibilità di crescita dell'export led, no, trascinate dalle esportazioni della Germania dati i fattori geopolitici. Quindi questo è una cosa che credo possa indurre i tedeschi a valutare con occhi un po' differenti, e penso soprattutto al loro rappresentante dentro al comitato esecutivo della BCE, le condizioni, perché è vero che normalmente, ed è giusto che faccia così, la BCE considera quando introduce una cosa, vede che effetto ha e poi casomai decide di fare di più. Però c'è anche da dire che la frase con cui comincia sempre il presidente della BCE, Mario Draghi, è: noi consideriamo non cambiato l'orizzonte di medio termine, che è quello su cui lui viene valutato nel suo mandato, che vuol dire un ritorno dell'inflazione all'1,5, insomma poco sotto il 2%, e una prospettiva di crescita economica anche un po' squilibrata, ma comunque di crescita economica nell'area euro. Ecco, adesso non siamo più in crescita economica nell'area euro e l'inflazione quindi si sta indebolendo ulteriormente, anche se certamente qui incidono i prezzi delle materie prime, però ci sono venute a mancare alcuni pilastri del punto di vista solitamente considerati dalla BCE. Quindi queste assomigliano un po' alle circostanze eccezionali che Draghi ha fatto spesso riferimento nelle sue conferenze stampa. Voglio, prima di dare la parola ad Alessandro Meri di nuovo, rispondere a Mattia da Padova, che ci scrive: la Germania fino a poco tempo fa era in surplus commerciale, adesso volete far credere alla gente che le cose vanno male a tutti per un meno 0,2%. Cosa volete fare voi giornalisti per giustificare la politica italiana? Non vogliamo fare niente per giustificare la politica italiana, e però avete sentito anche un economista, e ci sono anche i dati Eurostat, cioè potete andare sul sito e scaricarveli, che testimoniano che l'andamento del complesso delle economie europee non è positivo, no, molto semplicemente non si cresce. Poi voglio dire che l'Italia abbia il suo da fare e abbia delle preoccupazioni ulteriori, perché di anni e di tempo ne ha perso più degli altri e sicuramente più della Germania, su questo guardi proprio non c'è alcun dubbio, quindi qua non si giustifica niente. Alessandro Merli, le aspettative per il prossimo trimestre e eventuali ammorbidimenti, per così dire, della linea politica tedesca? Prossimo trimestre, in quello successivo, la Germania molto probabilmente tornerà a crescere. Sulla base degli ultimi dati è probabile che non torni a crescere con il vigore che ci si aspettava fino a qualche settimana fa. Diciamo che per l'intero anno le previsioni della Bundesbank e del governo sono attorno all'1,8-1,9, adesso la maggior parte degli osservatori indipendenti o degli economisti di mercato parlano di 1,5, anche qualcosa di meno. Comunque diciamo che questa contrazione, una stagnazione, non dovrebbe essere la norma per l'economia tedesca, anche se ci sono stati molti elementi abbastanza negativi. Sul fatto che la Germania intenda ammorbidirsi in modo particolare nelle sue posizioni nella discussione in Europa, avrei qualche dubbio. Non sono sicuro che improvvisamente i tedeschi siano diventati. Certo, il compito di Draghi o della BCE in un certo senso diventa più facile con i dati di oggi, forse questo è l'unico aspetto positivo dei dati molto negativi di oggi, è che c'è un fronte abbastanza comune di economie che almeno in questo momento non vanno, e quindi la BCE non può essere accusata di agire solo nell'interesse dei cosiddetti paesi del sud. Un'analisi uscita oggi di Commerzbank dice: i problemi dell'Eurozona si stanno spostando verso il nord. Un'ultima domanda, se vogliamo, sul filo del pettegolezzo, ma nemmeno troppo, perché si fa riferimento proprio alla posizione di equilibrio che deve mantenere Draghi. Come è stata presa a Francoforte la frase di Renzi di ieri, che ha detto: con Draghi ci vediamo spesso? Perché sono arrivate voci che non sia stata presa proprio benissimo. Ma diciamo che il fatto stesso che gli incontri di Draghi con il primo ministro italiano, sia Renzi o qualcun altro, non vengano mai resi pubblici dalla BCE, mentre invece lo sono quelli di routine che fa con non so, il cancelliere Merkel o il presidente Hollande o altri leader europei, dimostra che c'è una certa sensibilità a non voler lasciare che Draghi venga in qualche modo tirato per la giacca nella discussione politica italiana. Draghi è molto attento a non essere raffigurato come pro governo, contro governo, in questo caso non mi riferisco al governo Renzi in modo particolare, ma insomma a restare fuori dalla disputa politica italiana, e questo lo ha fatto con tutti i governi che sono stati in carica da quando lui ha preso le redini della BCE. Quindi diciamo c'è grandissima cautela a farsi coinvolgere nelle questioni italiane, e questa è la ragione credo per cui di solito non vengono annunciati questi incontri, almeno da parte della BCE. Lo vedo spesso, insomma, forse magari non sarà piaciuto tantissimo. D'altra parte l'anomalia è questa mancanza di trasparenza nei confronti dell'Italia, ecco, sì. Mentre questo problema non sussiste quando Draghi incontra la Merkel o quando Draghi incontra Hollande. O altri leader europei. Un'ultima domanda per il professor Daveri prima di andare in pausa e poi passare ai mercati. Ci chiede un ascoltatore al 349-238-6666 il ruolo della Francia, per così dire, perché qua insomma anche i francesi stanno facendo pressione per un ammorbidimento di bilancio, per così dire. La mia impressione, professore, è che la Francia sia, o quantomeno il governo francese sia, di una debolezza politica oltre che economica devastante in questo momento, cioè la possibilità di farsi ascoltare sia piuttosto scarsa. Sì, non sono neanche sicuro che venga anche a noi italiani di farci vedere insieme ai francesi, insomma, nel senso che da noi, per una volta è vero che noi siamo un po' sulla stessa barca dal punto di vista della performance economica dei due paesi. Noi abbiamo un deficit però che sta sotto al 3%, loro già da parecchio tempo hanno un deficit sopra al 4%, addirittura hanno già annunciato che sforeranno questo ulteriore 4% di qualche cosa, che quindi già non è un bel biglietto da visita per andare poi a Bruxelles e a parlare con la nuova commissione. Peraltro il governo Hollande non è che stia mettendo in campo nessuna delle iniziative, diciamo così, di riforma, riforme economiche o istituzionali che... Allora, professore, la stiamo perdendo perché è in viaggio. Comunque mi sembra che insomma, la conclusione fosse abbastanza chiara. Grazie a Francesco Daveri, economista all'Università di Parma, editore rivista del Corriere della Sera, ad Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Allora, perdonate la caduta romana il 14 di agosto a Ridaie. Allora, nessuno ha paragonato la locomotiva tedesca e l'Italia gambero, come ci scrive un ascoltatore, aggiungendo pazzesco. Abbiamo detto semplicemente che c'è complessivamente una certa debolezza dell'economia nell'eurozona e che tira dentro in questo momento anche la Germania. Poi sul pregresso possiamo ragionare all'infinito, insomma, su quanto la Germania abbia tirato fino ad oggi e quanto noi non abbiamo tirato perché non siamo stati in grado di farlo. Però la sostanza è questo trimestre quantomeno ci consegna questo quadro. Nessun paragone improprio, ma semplicemente una valutazione sui dati di questo trimestre. Pausa per la borsa. Focus Economia. Margherita che ci chiede un gufo ogni volta che parla Jens Weidmann, il presidente della Bundesbank. Facciamo così, il gufo lo lascio al titolare che torna lunedì, tanto Weidmann non smetterà di parlare e non smetterà di sostenere le tesi che sostiene, non vi preoccupate, oppure preoccupatevi, che è meglio. Veniamo alla borsa, una giornata di borsa, è il 14 di agosto, Chiara Di Cristofaro, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. Giornata di scambi da 14 agosto. Esatto, no? sì, oggi è una giornata veramente debole, fiacca, ci sono stati soprattutto movimenti tecnici e riposizionamenti in vista del fine settimana che per Piazza Affari è più lungo del solito. Allora, meno 0,29% il FTSE MIB, meno 0,25% il FTSE All Share. Parzialmente positive le altre piazze finanziarie europee, Francoforte più 0,28%, Parigi più 0,25%, Londra mezzo punto percentuale di guadagno, positiva l'America, anche se di poco, nonostante dello 0,20% il Dow Jones, nonostante il dato sui sussidi di disoccupazione fosse peggiore delle attese. Telecom Italia. Sì, allora, Telecom Italia è una delle poche storie di rilievo della giornata rispetto alle tendenze che dicevi tu. Chiude in calo dell'1,58%, stamattina era ben più pesante, è arrivata a perdere oltre 2,5 punti. Ieri, lo ricordiamo, c'era stato questo incontro tra l'amministratore delegato Patuano e il presidente di Vivendi Bolloré a Parigi, e oggi i mercati reagiscono così, perché temono che ci sia un aumento di capitale, che potrebbe essere però un'occasione per fare entrare Vivendi, sarebbe probabilmente un aumento di capitale riservato, ma soprattutto hanno paura che Telefonica a questo punto possa uscire rapidamente da Telecom senza accordi ben definiti, quindi prevalgono un po' i timori rispetto alla fiducia che si vedeva nei giorni scorsi sulle potenzialità di un'eventuale alleanza italo-francese, alleanza che riguarda soprattutto le attività brasiliane. Noi ricordiamo questo incontro seguiva l'offerta che era stata fatta da Telefonica per la controllata di Vivendi in Brasile. Telecom punterebbe invece a far sposare Team Brasil con la controllata della francese. Allora, complessivamente negative tutte le banche: UbiBanca no, meno 2,9, Popolare di Milano meno 2,6, Banco Popolare meno 2,3, Monte dei Paschi meno 2,06, Unicredit meno 1,85%, giù la Popolare Emilia Romagna di 1,5 punti, Intesa San Paolo dell'1,21%. Cosa è successo? Ma di fatto, guarda, questi sono i movimenti tecnici di cui parlavo all'inizio, nel senso che stavamo facendo un po' di calcoli per vedere gli andamenti. Le banche sono il settore che dall'inizio dell'anno ha guadagnato di più, quindi i bilanci per i titoli bancari anche con questi cali restano comunque positivi, così non è per altri comparti, per esempio il lusso che è grande protagonista dello scorso anno, dall'inizio di quest'anno è stato fortemente penalizzato. Quindi sono prevalentemente i ribassi di titoli che hanno corso molto, infatti in fondo al listino hai citato soprattutto le popolari, che sono proprio i titoli che sono stati maggiormente premiati. L'unico titolo bancario in positivo oggi è Mediobanca, altrimenti sennò poi ci sgridano che non lo diciamo, che sale dell'1,4%. Anche qui gli operatori non vedono motivi particolari, l'unica cosa che hanno citato è che appunto Mediobanca è advisor di Telecom con Vivendi, ieri c'era anche Nagel a questo incontro a Parigi, quindi potrebbe essere uno spunto appunto in una giornata da 14 agosto. Questa giornata è 14 agosto, però a un certo punto sta salendo Banco Popolare, o ho capito male, che poi ha chiuso con un calo del 2,3? Stava salendo stamattina, era uno del titolo migliore, era uno dei titoli migliori del listino, era l'unico, anzi, bancario in controtendenza insieme a Mediobanca. Poi invece hanno prevalso le vendite e chiude in coda. A farlo salire ci sono state queste indiscrezioni di stampa di stamattina su una trattativa in corso con Deutsche Bank per vendere un portafoglio di 300-400 milioni di crediti problematici, crediti dubbi, cioè quella parte di crediti che non è certo che poi possano rientrare, ecco. Questa trattativa chiaramente è vista bene dal mercato ed è comunque in linea con quello che avevano dichiarato i manager della banca, perché avevano detto che volevano cedere una parte di questi crediti e potrebbe chiudersi nella prima parte di settembre. Diciamo che era una notizia attesa, era uno spunto, ma poi hanno prevalso le vendite. Allora, su Gtech, che è il titolo migliore sul FTSE MIB, vale sempre il solito spunto, quello dei giorni scorsi, cioè il via libera all'acquisizione dell'americana IGT, e di fatto una grande fusione, un colosso dei giochi. Gtech, lo ricordo, è l'ex Lottomatica. Di questo tra l'altro torneremo a parlare più avanti, come già vi annunciavo in apertura, non specificatamente di questa vicenda, ma è un'altra di quelle aziende che ha deciso, che decide in forza di una grande acquisizione, in forza di una grande fusione, di mettere la testa all'estero, cioè di spostarsi e mettere la sede, quantomeno la sede legale, la sede fiscale, in un paese che non sia l'Italia. Bene anche Buzzi Unicem oggi, 3 punti percentuali di guadagno. Sì, qui mi è arrivato un report molto dettagliato di Morgan Stanley, perché hanno esaminato i rischi sul mercato russo, che sono stati uno dei motivi di penalizzazione del titolo nelle ultime settimane. Il titolo infatti è un po' sottovalutato e anche dall'inizio dell'anno è uno di quelli che ha perso di più. Morgan Stanley ha fatto un po' di conti valutando quanto sono i ricavi in Russia e negli altri mercati, e di fatto dice che la perdita dei volumi in Russia è del tutto compensata dai migliori risultati che sono attesi sia in Repubblica Ceca che in Ucraina, ma anche dai profitti in arrivo dal Messico. Quindi anche in uno scenario veramente negativo, quindi con un meno 25% di volumi, un meno 30% nei prezzi reali in Russia, e il target price che calcolano gli analisti è di 11,75€. Il titolo oggi chiude a 11,08. E bene anche Fiat oggi più 2,23? Sì, continua a recuperare. Fiat è stata fortemente penalizzata, qui l'attesa si vedrà, a inizio settembre ci saranno novità sul diritto di recesso e sicuramente il mercato è alla finestra. Allora, abbiamo parlato del primo titolo che ti ho chiesto, si muove in relazione a vicende che riguardano, no, Italia e Francia. C'è un'altra vicenda che riguarda Italia, sì, e Francia, ed è quella di Club Med. Sì, infatti il titolo a Parigi oggi è andato giù, perdeva oltre il 2%, ma chiude con un calo di 1,5 punti. Il mercato è deluso dal ritiro dell'offerta della cordata franco-cinese Fosun Ardian. Loro avevano fatto un'offerta per comprare il Club Med a 17,50 euro per azione. Ieri è arrivato il via libera della Consob francese invece all'offerta degli italiani, cioè di Andrea Bonomi e della sua Global Resort, un'offerta decisamente maggiore, 21 euro per azione. Il mercato si sta allineando a questo prezzo, ma chiaramente avrebbe gradito maggiormente una guerra, un rilancio. Invece Fosun e Ardian si sono ritirati e il titolo è sceso. Come dice la gente che ne sa, perde appeal speculativo. Esatto. Allora, grazie a Chiara Di Cristoforo di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Buonasera. Grazie a te. Allora, ancora una risposta a un ascoltatore, adesso lo recupero sulla Germania. Dite, il 5% della disoccupazione è poco più che fisiologica, di che cosa state parlando? Guardi, che è esattamente il ragionamento che abbiamo fatto ieri. Lo sappiamo benissimo che la disoccupazione in Germania al 5% è poco più che fisiologica, questo è evidente, è chiarissimo a tutti. Abbiamo semplicemente segnalato che, ancora una volta lo ripeto, che c'è un rallentamento. Da cosa dipende? Da tante cose. Dipende dalle tensioni sull'Ucraina, dipende dal rallentamento degli altri paesi europei, da tanti elementi. Naturalmente continua a essere il paese che in questo momento nell'Eurozona sta meglio, e questo non è che lo sta negando nessuno. Traffico. Focus Economia. Stefano invece che scrive delle banche, quante volte le banche dovranno essere soccorse. In realtà non si sta parlando, e forse c'è stato un fraintendimento, questo lo vorrei proprio chiarire, non si sta parlando di soccorso delle banche, ma si sta parlando dei test che la Banca Centrale Europea sta facendo sui bilanci delle banche per verificare, come dire, quanto reggono. E Alessandro Merri ci stava dicendo e Francesco Daveri ci stavano dicendo che è probabile che in questo momento le banche siano ferme dal lato del credito per una serie di motivi, ma anche perché si aspettano i risultati di questi test sui bilanci, test patrimoniali della Banca Centrale Europea, per capire quanto credito possono concedere. La faccio molto semplice. Professor Giuseppe Berta, storico dell'economia all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa, autore di molti libri, l'ultimo è Produzione Intelligente, Viaggio nelle nuove fabbriche, edizione Einaudi. Professor Berta, buonasera e bentornato ai nostri microfoni. Buonasera. Allora, con lei che tra l'altro per anni si è occupato e si occupa ancora di Fiat, vogliamo parlare di due temi che sono, o meglio, di un tema che è parallelo alla vicenda Fiat, e sono due casi di questi giorni. Parliamo di G-Tech, la ex Lottomatica, che si è andata a comprare un colosso da un colosso negli Stati Uniti, International Game Technology, con un accordo da 4,7 miliardi di euro, quindi un'acquisizione di grandi dimensioni oggettivamente. Questo ci fa sempre piacere, perché sono aziende italiane, no, che vanno all'estero. E poi parliamo di Salini Impregilo. Perché ne parliamo insieme? Perché G-Tech ha detto già che una volta fatta la fusione mette la testa da un'altra parte, probabilmente a Londra. E Pietro Salini, invece, intervistato dal Financial Times, dice: siamo pronti e alla ricerca di acquisizioni. Nel momento nel quale ci espanderemo, non escludiamo, e anzi abbiamo valutato già all'inizio dell'anno, l'opzione di mettere anche noi la testa in un altro paese, la sede legale, la sede fiscale o quello che volete. Siamo ormai una multinazionale ed è così che ci dobbiamo comportare. Professor Berta, acquisiamo all'estero ma poi le aziende ce le perdiamo. Mi sembra che il caso Fiat abbia fatto scuola. Io devo dire che quando si discuteva della prospettiva internazionale della Fiat, ho sempre pensato che non fosse destinato a rimanere un caso isolato, e quanto sta avvenendo in questi giorni ce lo conferma. Ce lo conferma perché evidentemente la crescita dimensionale delle nostre imprese, anche quando non è, è pilotata dall'interno, cioè non è il frutto di un'acquisizione da parte di altri, comporta l'uscita dal contesto italiano. O comunque, nella logica del management di oggi, l'Italia è vista, diciamo così, come un handicap per le grandi dimensioni. Come per imitare una famosa battuta, l'Italia non è un paese per grandi. Un paese marginale, sostanzialmente, nella testa di un management che guarda al mondo. Sta diventando progressivamente marginale, e la cosa si accentua perché leggevo ieri l'altro i dati sulle acquisizioni, no? Il dato positivo certamente è che quasi 6 miliardi di investimenti stranieri nel primo semestre di quest'anno hanno riguardato imprese italiane che sono state acquisite, sono entrate a far parte di fusioni. Allora, da un lato questo ci rassicura, perché vuol dire che le nostre attività hanno ancora una solida base di capacità e di valore, ma dall'altro ci fa capire che comunque entrano in una sfera d'azione che non è più sottoposta alle logiche di origine, non è più legata alla cornice italiana, e questo è comunque un fattore che ci rende più inquieti. Vorrei capire da lei, e secondo lei, professore, che peso hanno, no, rispettivamente i due fattori? Da una parte un paese che, lo raccontiamo quotidianamente, nel quale è molto difficile fare impresa, è anche difficile solamente gestire, lo abbiamo raccontato due giorni fa con un giuslavorista, con Giampiero Farasca, anche solamente assumere una persona, perché ci sono decine di tipologie contrattuali diverse, quindi lui ci raccontava che gestisce anche clienti stranieri e dice: quando arrivano qua si mettono le mani nei capelli e dicono ditemi che cosa devo fare perché non so dove mettere le mani. Dall'altra parte le complicazioni del paese, no, che ben conosciamo, e dall'altra parte la marginalità finanziaria, se vogliamo, di questo paese. Quanto giocano questi due elementi, secondo lei, professore? Lei giustamente ha detto due elementi. Uno è un elemento specificamente economico, no? Le opportunità. Andare a Londra è diventato un vantaggio, abbiamo visto, anche per le imprese statunitensi. Anche negli Stati Uniti incomincia a suonare qualche campanello d'allarme, perché sono molte le imprese che scelgono la piazza d'affari di Londra come loro sede fiscale. E però questo handicap della tassazione per noi si lega a una serie di fattori disfunzionali, come quelli citati prima: la difficoltà non solo di comprendere le tipologie della normativa per le assunzioni, ma la difficoltà di comprendere anche le nostre logiche di gestione del lavoro. Un manager internazionale ha difficoltà a capire il sistema contrattuale italiano. Da questo punto di vista io devo dire che ho cambiato un po', ragionando su queste cose, un po' il punto di vista anche sulla vicenda Fiat. Io, come molti altri, mi sono interrogato per anni, no, per come mai Marchionne abbia spettacolarizzato, diciamo così, il confronto con la FIOM, che sembrava eccedere, no, il costo effettivo della normativa sindacale. Il problema è che credo che Marchionne si sia servito della politica sindacale perché era l'elemento più facile per mettere in rilievo l'anomalia italiana. Ecco, la mia impressione è che la spettacolarizzazione del contrasto con la FIOM servisse anche a far risaltare meglio le anomalie italiane, e certo questo è un elemento che conta. Allora, noi dovremmo almeno poter giocare su un elemento di vantaggio. Se la tassazione è molto elevata, dovremmo poter offrire delle condizioni di insediamento vantaggiose alle imprese, o viceversa, le nostre tipologie di lavoro sono più complesse, ma la pressione fiscale o il peso della normativa relativa al costo del lavoro e così via diminuisce. Noi non facciamo nessuna delle due cose. Sì, tra l'altro, trovandoci a confrontarci, visto che si parlava di Fiat, per esempio, con la Serbia, oggi c'è un bel pezzo sul Sole 24 Ore su questo tema. Nei primi 100 giorni il nuovo premier, il capo del governo Aleksandar Vučić, è riuscito a introdurre, dice il Sole, almeno 4 provvedimenti significativi per rimuovere ostacoli che frenano il business delle aziende. Insomma, voglio dire, ci troviamo anche in una concorrenza che alcuni ritengono sleale, però è una concorrenza tra paesi. Questo è, no? La concorrenza tra paesi è destinata ad accentuarsi. D'altra parte, la globalizzazione delle imprese si regge su due pilastri. Uno è l'export. Abbiamo visto il peso abnorme che l'attività di esportazione ha presso le imprese, che puntano in primo luogo l'esportazione di fronte alla caduta della domanda interna dei vari paesi. In secondo luogo è l'attrazione degli investimenti internazionali. Ecco, l'Italia rischia di essere presa in mezzo a questa tenaglia. La ringrazio, grazie al professor Giuseppe Berta, storico dell'economia all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa, l'ultimo suo libro Produzione Intelligente, Viaggio nelle nuove fabbriche, edito da Einaudi. All'ascoltatore che chiede quanto perde il fisco in tasse dalle aziende che se ne vanno, francamente questo è un calcolo un po' complicato da fare, perché dovremmo calcolare anche quelle che entrano o le nuove che nascono, insomma, è un po' complesso. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Mauro Del Corno in assistenza e in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ve lo ripeto ancora una volta, Focus Economia torna lunedì, domani non c'è, tra l'altro sono chiuse le borse, almeno la borsa milanese è chiusa, torna lunedì e c'è Sebastiano Barisoni subito dopo il GR delle 17. Buonasera. Radio 24. La passione si sente.